Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo L'Esposizione Universale, parte 1, di Luigi Squarzina, regia impianto scenico Piero Maccarinelli, con Luigi Di Berti, Stefano Santospago e con gli interpreti del corso di perfezionamento per attori della Scuola del Teatro di Roma, in ordine di apparizione, Maria Teresa Campus, Paride Cicirello, Nicola Sorrenti, Alice Spisa, Lorenz Mazzoni, Carmine Fabbricatore, Giulio Maria Corso, Stefano Scialanga, Sara Pallini, Roberto Cacciopoli, Arianna Di Stefano, Antonietta Bello, Jacopo Uccella, Vincenzo D'Amato, Gregorio De Paola, Michele Lisi, Pietro Masotti. Musiche Antonio Di Pofi. Stanotte mi sono coricato tardi e non riuscivo a prendere sonno per la ragazza che tossiva. E certo. Si è alzata e ha lasciato aperto tutto. Se mi sono portato in piedi la pleurite, io mi devo riguardare. Col caldo che fa? Col caldo che fa? Io ho bisogno di dormire serenamente. Io devo avere la mente lucida col lavoro che faccio. Noi qui bene, siamo tagliati fuori dal mondo. Mettiamo caso che la ragazza si sentisse male. Io non so proprio come fareste. L'abitato più vicino è quella osteria che la si casca e te fa il rognone. E mo sentivo che dice il dottore. Perfetto, sei calmato. Devo chiamare qui dalla stanza e volgere. Sempre, brigadiere, vieni qua. Agli ordini. Mancano 25 metri di filo spinato. E il piantone riferisce di averti visto ronzare intorno alle 5 dopo la tua ora. Dov'è messo? Parlate fuori, per favore. Dov'è? Ma che cosa? Il filo spinato. Brigadiere, ma che ne so io? Forse l'avrà preso il piantone. Quando sparisce del materiale sono bene a rivolgermi. No, ma da noi ci sta niente, brigadiere. Me l'ha visto io. L'avrà già venduto. Prega il santo dei gobbi che non ti cogliamo sul fatto. Non ti vuoi mettere in testa che cosa significa essere vigilato speciale? Brigadiere, noi qui dentro siamo tutti sotto vigilanza speciale. Noi siamo una carpata di sorci, intanati nei buchi di una tonnellata di codiera. Però con la proibizione di rosicchiare. Brigadiere, contro di me non può dire niente. Perché io anche ieri sera sono venuto a mettere la firma, come ogni sera. Continua di questo passo e vedrai come torni. Ehi, funziona la macchina da cucire? Certo, il groviera che gratta lui, quello va in conto allo Stato. Ma dove trovi il coraggio di giraquattro una notte? Amica mia, non tutti abbiamo il fornitore privato come ce l'hai tu. A notte, lasciala ai fantasmi. Lo sapevo. Guarda subito, sì, finisco il palo. Ma chi vuoi che si mangia gelati a questo? Non rispondi, sa? Potevi vernicare il carrettino, invece resta qua a giocarci in lista. Ma sì, qua c'è sta la classe. Il carrettino mi appesantisce i muscoli. Appesantisce lo stomaco, afanatico. Sai che qua? Alla lingua tua fa sempre comodo e te lo spero. Ne può parlare. E parliamo. Ho dormito. La mamma ne ha ancora tornato dalla spesa. Se vuoi magnocchi, ti impresti dalla piena mezzo sfilatino dentro il pane e latte. Ho fame. E te devi nutrire. Lo sai. Luigi, come stai? Rivoltami un po' il cuscino, va? Ecco, servita. Oh, è spiccia da quelli che demandavo a stia con te. O la Riviera o niente. Bene, madame. E Riviera, con la mia paccarda. Ti ricordi che a maggio io non ci riuscivo a fare la salita del Tenkan? Domenica, che era mia, ho corso 150 km in 5 ore. Bravo. Oh, e che vuoi dici questa faccia? Domani sono 2 mesi di sto strazio. 2 mesi. E dai, stai qua, ti consolo io. Senti, io ti devo confessare una cosa. L'altro ieri all'ambulatorio mi hanno spogliata tutto e mi hanno fotografato dentro. Ti dispiace? Ma quanto sei scema! Vedrai quanto guarisco in fretta. E poi tu mi hai dato l'anello, no? Buongiorno, Patrick. Buongiorno, come sei, Lucia? Bene. Credevo fosse avanzato da ieri. Quando mai lo avanza qualcosa? Dagli, mangia su! Già a casa! E ormai io me ne devo solo. Guai a un uomo contemplativo, l'intero mondo gli passa sopra, dilaniandolo con il suo ventre dentato. Oh, finalmente un po' di pulizia, me ne compiaccio. Aspettiamo il dottore d'assistenza, voglio che trovi sto corcile. Beh, sarebbe meglio, figliolo, farebbe più effetto. Povera Italia. Qui mi rifugio dalla vigliaccheria del secolo e per giunta questi disordini, queste agitazioni che ci avviliscono davanti a noi stessi. Professore, ma quali agitazioni? Ma sempre le solite messe in scena. Stavolta hanno tirato in ballo la Prenestina. Dio, lui scommette che hanno chiuso il cantiere. Professore, ma lei viene dal centro? Sì, sì, sì, sì. No, io ho fatto la mia parte, non mi immischio. Ma tu dovresti cercare di portarti per tempo sul posto. La gente che non vuole sentire ragioni grida. Gridando viene sete, chi ha sete compra i gelati! E questa è l'unica utilità per chi ha ciò che fanno. Ciao, Luci. Sta attento però. Sì, dammi un occhio a bici, Ciao. Dal frastuono di Roma qua solo non arriva che un eco smorzato. Sembra di essere al di sopra delle passioni, al di là delle necessità materiali. Professore, è l'insalata? Ma non si mangia che erbe, ma è possibile? Inoltre oggi non tocca a me, In fondo alla scalinata ho visto dei bei ciuffi. Povera e nuda, vai, filosofia. No, professore! Non lo tratta male, è così solo. Ti sei dovuta alzare stanotte? Ho fatto un altro di quei sogni. Mi sono svegliata con le mani umide, la gola secca. Mi sentivo soffocare. E perché mi hai chiamato? Per mi vada tutti così bene. Allora sono andata su e ho guardato fuori. Che impressione! Quel chiaro di luna sembra un altro mondo. Tu ti ricordi lo scialle di nonna, quello verde con i ricami d'argento vecchio? Era preciso. Il silenzio, il vero silenzio. E poi quelle statue stese a terra. E lì ho paura. Ma di che? Non lo voglio, il dottore, dici che non venga. Io voglio uscire. No, Gioia, no! Voi che non mi volete far guarire, io sto bene! Ma Lucia! Mi cerca! Chi è? Non ti dico, ma chi è svenuto? Remo! Remo! Ma chi è? Io gli ho chiesto chi era, ma di che cosa aveva bisogno? Tieni, bagna questo. Lucia, passa lo sgabello. Ma che c'è, giro il brigadiere? Io non l'ho visto. Magari con tuo questo. Domanda al sacrestano in cima al campanile se suoni col fulmine che gli cade accanto. Com'è che sei ridotto così in faccia? No, la cicatrice non è cosa di oggi. Sai che gli uomini sono di nuovo a spasso. Hanno chiuso pure il cantiere della Prenestina. Ne durasse una. Ma lui? Ero a Via Nazionale, all'imbocco del tunnel. È un piazzamento buono. Quando sento gridare dietro via Milano. Dall'esquilino scendeva una colonna di gente in ferocina. Io mi infilo in mezzo, domando. E scopro che questa mattina, arrivando al cantiere, hanno trovato i cancelli chiusi e un cartello. I lavori sono sospesi. Io continuo con loro. E quando arriviamo al Viminale, troviamo i cordoni della polizia e torna al ministero. A quel punto, il capo dei manifestanti monta sul pilastro più alto e fa: è una manifestazione pacifica! Vogliamo il ministro! Su questo piomba la cenere. E in 5 minuti la piazza è un campo di corrida con le jeep che caricano come tori. Io riesco a issarmi su un cornicione per prendere meglio la scena. Quando a un certo punto vedo una briglia farsi strada in mezzo alla carca con 4 agenti sui predellini. Qualcuno grida: è il ministro! Tirano giù gli agenti, spalancano lo sportello e piccolo come un grillo stanato fuori dal buco esce fuori un ometto col pizzetto grigio che balbettava: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, io che sono amico vostro, io che ho sofferto con voi per 20 anni. Finché una specie di brutolo lo prende di petto urlando: se sei amico mio, dammi l'abito che porti, guarda io come vado vestito. Ma perché? Come andava vestito? Eccolo qua. E siccome il pizzetto voleva fare l'offeso, lui gli ha dato un ceffone in faccia che l'ha ributtato in macchina. Ah, davvero? Davvero sì, appena spiro un pulmino ti faccio vedere che ceffone. Comunque, la briglia è riuscita a ripartire, mentre lui da solo dava battaglia a 4 della cenere che eravamo chiusi in mezzo, picchiando all'impazzata. A quel punto sono saltato giù io e l'ho trascinato dentro un portone. Ma quelli ci hanno inseguito su via nazionale. Allora abbiamo dovuto imboccare 2 ragazze, paio di filobus e poi tutta la corsa fino a qui. Picchiare uno che non si poteva difendere. Ellie, io ci metterei la firma. Avere la briglia alla porta e uno sgarascione ogni tanto. Non hai mai visto una bruciatura? Io non stavo a guardare. No, no, tamburini! Chi l'ha chiamato? Nessuno, vieni con me! Possono chiudere anche le carceri qua, non mi riguarda più. Le spacchinate inutili. Buongiorno, tamburini. Sono arrivata fino a Porta San Paolo, con la speranza di trovare un po' di pesce. Ma chi ci si può avvicinare? Non ci sono soldi che bastino. Ad averli sarebbe niente. Tanto che si svegliaci. Ho preso un bel pezzo di mozzarella. E speriamo che non ti fai pregare 3 ore per mangiarla. Ho i piedi che non ne possono più. No. Se mi siete è finita. Mammo, Luci, tirate sul dettelano. Così non mi fa 2 passi. Sì, lei però per piacere si deve girare dall'altra parte. Per pranzo facciamo minestra di patate. E ci metti 2 pomodorini maturi, 2. E gli altri li lasci da parte a cena questa sera con la cicoria. Tamburini! Ma aiuterebbe a riempire questo secchio alla cisterna? Ah, ma! E beh, che c'è di male? Per me è pesante. Alla mia età... Vada avanti, signora, laggiù. Senti, ma chi era il giovane che parlava? No, mamma. Ah, ma correvano come... Vai, mamma, dai. Ellie, hai avuto la roba ieri sera? 9 pacchetti. Grazie. Uno l'ho tolto io. E che cosa avevi da dirmi? Poco fa è arrivato un fonogramma urgente. Mi trasferiscono. Dove? A Enna. In Sicilia gli uomini non bastano mai. Mi dispiace sentire. Ti porto con me. In bassa Italia la vita costa la metà. Per qualche mese potrò farti fare la signora. Ma io non posso venire. Troveremo una scusa per tua madre, si tratta di pochi mesi. Le lasceremo qualcosa per tirare avanti, in fondo è questo che vuole. Tamburini! Ma mia madre, manco se l'immagina che vive in peccato mortale. Quando si dovrebbe partire? Stasera. E come faccio? Forse... potrei raggiungerti in seguito. Che ragionamenti. Guarda che nessuno ti obbliga. Parliamone dopo mangiato. Come se non avessi altro da pensare. All'1 devo fare le consegne. Il pomeriggio lo perderò al comando. Ti posso dare mezz'ora per decidere. Tamburini! Arrivo! Siamo d'accordo? Hai tempo fino a mezzogiorno. Gli succhi gastrici si rivelano al pensiero di dover digerire questi cespugli. Ma è inutile che io metta l'erba nel catino se manca l'acqua per farla rinvenire. Sono andato a prenderla. Avete delle contrarietà? Decidere delle proprie cose in piena tranquillità di spirito, figliola, sempre. Voi non mi stimate e questa è causa per me di grande dispiacere. Non ascolti i fatti dell'altro piuttosto. Di quello che era la mia vita rimane così poco che mi conviene vivere in terza persona. Fatevi sposare. È già sposato al paese suo. Mi raccomando, professore. Lui vuole che si sappia. Prudente, eh? È per me che vuole. Non è cattivo, sa? Con voi. La roba che vengo per strada? Ma procura lui. E tre volte che mi hanno fermato, è venuto per garanzia. Pure la macchina da cucire. Mamma non lo sa. Sono quasi tutti i soldi suoi. Vabbè, forse sono stata debole. Ma non è solo riconoscenza. Anna arriva nei giornali? No, è all'interno. Eppure se fosse per Lucia. Mamma si illude, ma io ho paura che sta molto male. All'ambulatorio cosa hanno detto? Gli hanno fatto la radiografia e hanno raccomandato di tenerla a letto finché viene un dottore con le lastre sviluppate. Dopo domani mattina hanno detto, dopo domani è oggi. Ma si sta facendo tardi, settimio, fra mezz'ora vuole la risposta. E per me mezz'ora e mezz'ora. Professore, poniamo che Lucia stia male. La scelta è fatta. Non posso muovermi. Ma se stesse bene, io andrei con lui. Tamburini, lei è un uomo prezioso. Senza di lei non saprei proprio come fare. Io parto oggi. Dove va? Sicilia. Così lontano. Hai sentito, Ellie? Sì, mamma. Certo, per lei è la soddisfazione, eh? Segno che i superiori la stimano. La Sicilia, terra degli aranci, delle passioni ardenti. Venga a salutare Ellie prima di partire. Arrabbia molto? E che ne so? Dovevi domandarlo. Io ti dico che quel ragazzo ti pensa. E certo, se tu non lo incoraggi. Le donne sole senza un uomo. È fatica. Ma su una posizione, con lui un pezzo rimane sicuro, non ti mancherebbe. Io non... E tu e tu, non essere egoista. Lucia ha bisogno di curarsi. E anch'io non voglio mica invecchiare in questo mausoleo. Adesso che parti, potreste cominciare a scriverti. Tanti buoni matrimoni sono cominciati così. Ma dove? Fuori! La prima volta che non ce n'era. Io non le ho detto non ce n'è. No, mi sono venduta pure la camicia. E non per modo di dire, per modo di fare. Beata voi che avete qualcuno vicino. Sì, la prossima volta che nasco sta fresco che mi sposo. Faccio come mia cognata, perduta io, perduto pure Dio. Pensare che quel poliziotto potrebbe essere la nostra fortuna. Ma che ha detto? Niente. Affarone! Due braccia robuste e un cervello sveglio, vendosi al peggiore offerente. Ma chi ti vuole? Ma quante volte io ti ho detto tu devi mettere a lavorare in proprio? Quando a te ti fatto le pronunce, sa la famiglia che piagne. Non sta. Allora, do io. Sì, Pio. Comodina, mia moglie! Se sarò perso il lavoro, se giocavo pure il terzo rete, se giocavo. Ma quale rete? Quale rete? Gli converrebbe non nascere. Piuttosto che crepare di sincope il giorno che aprirà il tuo testamento. Lascia al mio primogenito un nome onorato. Lascio in dote a mia figlia un buon ricordo di me. Lascio al più piccolo la tessera del partito. Beh, non te ce l'hai. Ma pensate alle premiure, sorella? Che questo proprio non avevo più. Sì, Piera, sì. Come ti senti? E come se ne senti la disgraziata che fatica da stamattina ai sei? Ma piuttosto, te che fai a casa a quest'ora? Stavo a festa? No, no, in pensione. No, c'è sciopero. Oh, Maria Vergine! E perché? Perché? Perché? Perché volevano licenziare gli operai. Ma così vi fate licenziare tutti? Ma che dicono al sindacato? Quanto dura sto sciopero? Più molto che poco. Ma che vi siete messi in testa? Quelli già vi tengono per carità di Dio, Pio! Senti, Piera, state zitta, eh. Piera, te lo misuri a casa il grembiule. Sì. Eh? Io non ho preparato niente. E io ti ho riportato il pranzo. Yeah. E questo secondo te basta per te? Oh, sciopero. Fammi sta zitta, guarda, fammi sta zitta, eh. Pio, sono 1000 lire. 800 del percale più 2 di fattura. Porti di pazienza fino a che me li guidano l'ultima settimana, sorella. Vabbè, vabbè. Però cerca di ridarmeli presto, perché pure io devo arrivare a fine del mese. Oh, ti devo ringraziare. Dove siamo visti, e te? Al cantiere. È Remo. È un amico. Remo, vieni con me. È tutto dello Stato qui? Sì, sì, tutto dello Stato. E noi piano piano ce lo stiamo vendendo un pezzo alla volta. E per questo hanno messo il posto di polizia. Al Viminale! Ecco dove l'ho visto. È uno come te. Oh, sei scappato appena al tempo. Ne hanno arrestati 5 o 6. Faresti bene a nasconderti per qualche giorno. Potrebbe fermarsi qui. Per oggi farà mezzo con me. No, no, un'altra bocca da sfamare. Ma... è privato. Vivete qui. Interessante. Interessantissimo. Per noi, poi. Dovremmo mettere un cartello. Ma dica che è femmina. Ma non trovi che fa molto... albergo dei poveri? Un albergo dei poveri visto da Piacentini. Sì. Disturbiamo? Ma niente affatto. Venite avanti. Bazzicari! Questo sì che si chiama essere celebri. Ma è Bazzicari, Bazzicari? Se non sbaglio. Non sbaglia. Questo non è l'ennesimo visitatore importuno. Vi presento Ettore Barzilari, l'uomo forse più illustre delle fate di mettere ex accademico. Noi dobbiamo esserci già conosciuti. Sì, permettete, con Bastro fummo insieme a parecchie riunioni al ministero quando l'Italia era una cosa seria. Non ricordo. Mia figlia qualche volta mi fa da segretaria. E direi che qualche volta ti faccio da figlio. Commendatore, ma che cosa fai? Che vi prego, si accomodi come se fosse in casa sua, prego! Mi mette una firma qua sopra. Scriva a Filippo. Che te ne sembra? Guardi, 100 volte ho rietto quel punto dove Paolo sta per suicidarsi. Quando niente che sia nobile può vincere, quando... Finito di stampare a Parma il 18 febbraio 1920, il mio primo romanzo. L'hai trovato su una bancarella? Sì. È una rarità, anch'io non ne ho più. Guardi, sei sempre... No. Decidere di venire a vivere quassù non è una scelta di tutti i giorni, eh. Richiede fantasia, iniziativa. No, guardi, ci ha messo qua il comune. Capa di ritirarsi completamente, vero? Oggi mi hanno telefonato pregandomi di scrivere un pezzo sull'E42 e la visita è stata più impegnativa del previsto. Sia perché l'esposizione si presta di per sé a pensieri istruttivi circa le ambizioni sbagliate, sia perché voi, ecco, voi costituite un assoluto fuori programma. È come se l'archeologo che scoprì Pompei di colpo trovasse che della gente vi abitava. Ora, giuro che questo palesamento architettonico sembra più antico di Pompei. Ma voi siete squisitamente contemporanei. E qui altri pensieri istruttivi. Le immagino. Li dica. No, non mette conto. No, no, no, li dica, mi interessa, io ho finito, tocca a voi. La gente vuole sapere chi siete, come vivete. Verrà scritto di noi sui giornali. È naturale. Non mi piace. I giornali sono trappole. Certo, noi arrezziamo così. Vede, Barzinai, ci si abitua all'oscurità. e la prospettiva di essere esposti in piena luce non ci fa troppo piacere. Perché siete delle marmotte? Il cinema e i giornali possono arrivare dove voglio. Vede, Barzilai, io avrei voluto fare il giornalista. Conosco metodi più redditizi di guadagnarsi luce dallo stomaco. E infatti la mia vera vocazione è l'operatore cinematografico. Sono molto bravo, sa? Perché non dare un'occhiata al mio album? Piuttosto perché non cerchi di convincere i tuoi amici? A parlare? Facilissimo. Forza! Di che cosa avete paura? Chi ha i suoi motivi per stare zitto è esentato. Pezze? Pio! Cominciamo da te. Tu non hai fatto sempre lo spaccapiede. La mia vera vocazione è lo spaccatesta. E allora comincio io. Mi chiamo Filippo. 2 anni di Africa e 2 di Kansas, Stati Uniti. Tornato e ritrovatomi solo al mondo, senza casa, né lavoro. Lo Stato mi ha alloggiato in questo campo. Per campare faccio il fotografo volante. Tac, siete stato fotografato in una posa simpatica e disinvolta. Ma dimmi una curiosità, è un mestiere che rende. Beh, renderebbe avendo disponibilità di pellicola. Ma chi come me ha poca pellicola deve ridursi ai trucchi, le spiego. Io fingo di scattare e se vedo che il soggetto ha bocca dico: per sicurezza facciamo un'altra. Sono 20 lire di anticipo. Comunque adesso con rotto il ghiaccio vedrà se non parlano, vedrà. Che ore sono, mamma? 20 a mezzogiorno. Scusate, ma fra quanto si mangia? Aspettiamo il dottore. No, sì, ma dei fatti loro. Ma lo fanno per farmi l'acqua. Sbagliate strada, Barzilai. La pedagogia idealista non ci ha indicato da che parte andava presa la nuova generazione, quella per cui lavoravamo e lottavamo. Per farla passare al nemico basta offrire loro qualche sigaretta. E allora le offro a lui, che è un raccattacicche. Ma sì, non l'ho vista io a Via Veneto, eh? Almeno potrebbe farsi il bastone con la punta sotto, e non parlo di Nigeria. Pippo! E basta, e come siamo? Sempre a predicare, a dare direttive. Professore, sono finiti quei tempi. Adesso le cicche così, con 2 dita. Barzilai, vi dirò io qualche cosa. A nome della vecchia generazione, venite. Lasciate girare lo sguardo. Qua attorno si stendeva la campagna suburbana, tutta fosse e collinette, tormentata da siepi e buche come un paesaggio lunare. La zona sembrava inadatta all'edilizia, così accidentata, così... E invece, nel giro di 2 anni, il movimento terra fu completato grazie a scavi che hanno generato un movimento di terra di 5 milioni di metri cubi! Furono eretti contrafforti giganteschi! Sì, e intanto noi a Bardia aspettavamo il cemento per le fortificazioni. E mentre prima la zona era desolata, poca erba, misera pastura, pure guardate la vegetazione è ricca e varia, da cipresso all'alloro con le pagode scure dei pini mediterranei. Ma voi siete salito dal parco o dalla gradinata? Quale parco? Non lo curano più. E la natura ha ripreso il sopravvento. Ma quando scenderete, sdraiatevi un poco nell'erba. Merita. Silenzio. Odore di fieno, di salvia, di papaveri. Le mole bianche contro l'azzurro formano un quadro solenne. Finita l'esposizione, quassù doveva sorgere un quartiere nuovo. Leggete su quel frontone. La terza Roma si dilaterà sopra alte bolli lungo le rive del fiume Sacro sino alle spiagge del Tirreno. Scrivete anche questo sul vostro articolo. Sicuro, Pippo, io fumo i mozziconi degli altri. Anzi, vado appositamente a raccattarli a Via Veneto, perché se alzando la testa incontro lo sguardo di qualche vecchia conoscenza, mi diverte rivedere la mia vita nel guizzo di 2 occhi imbarazzati. Le passioni diventano fermezza, ma non si esauriscono. Come potevo capire gli uomini finché vivevo in mezzo a loro? È valsa la pena essere messi al bando per potermi osservare da di fuori. C'è stata l'amnistia. Non lo sa. Ci risparmi la sua autodifesa. Io non mi difendo. Io accuso la nuova generazione di non avere non avere seguito i sogni di grandezza dei quali era stata educata. Sì, di avere preferito la doppiezza remunerativa al sacrificio disinteressato, di avere mancato alla parola data. L'aveva data un uomo a un uomo, professore, non un popolo a un popolo. E di avere, nel momento decisivo, compromesso l'esito della guerra. Più compromessa di com'era. Le guerre si perdono, ma non si tradiscono. No, professore, le guerre non si fanno. Le guerre si fanno con i propri alleati e contro i propri nemici. Scelti da chi? Non ci si schiera all'ultimo minuto con chi cancella dalla faccia della terra un grande paese, la cui distruzione ha lasciato deserto il cuore d'Europa. E lei porta il lutto per questo. Io porto il lutto! Per mio figlio Raul, ucciso dai ribelli durante un rastrellamento in Garfagnana nel luglio del 44. Hanno un bel coraggio parlare ancora di guerra. Sì, lo so, lo so. Abbiamo perso il diritto di giudicare. A voi la natura aveva dato un grande ingegno, siete certo di aver usato bene? È lui che ha usato me. E vi ha fatto cambiare idea quando cambiava il vento? Ma voi non mi aspettavo un'osservazione così superficiale. L'artista ha il dovere di evolversi e il diritto di contraddirsi. Sono principi elementari. Mi inchino ai canoni della nuova estetica. Quando andavo a Ostia la vedevo dal treno. L'esposizione universale mi faceva bollire il sangue. Il monumento alla cretineria nazionale. Mangiare pane e cipolla tutti i giorni per avere il vestito della domenica. È un vestito da contadini arricchiti. Vede, Barzilai, abitarci è una sensazione particolare. Mi sembra di essere un inquilino della torre di Babele dopo il crollo. Non è così! Non è la prima volta che vengo qui. Voglio dire, da ragazzo il pensiero mi ci portava spesso. A scuola ce ne imbottivano la testa, tra i compagni se ne parlava. Dovevamo visitarla tutti insieme con un trenino speciale. Eravamo ragazzi. Cioè, per noi l'esposizione era una promessa, no? Gente da tutto il mondo in Italia, viaggi, nuove sedie di francobolli. Si pensava, avendo l'esposizione saremmo stati tutti più ricchi, no? Erano anni pieni, anni dell'ignoranza. E noi correvamo. Alla fine ci siamo trovati in fondo a un burrone. E il burrone era profondo. E dall'alto gente che non avevamo mai visto ci buttava delle corde. E allora ci siamo arrampicati e qualcuno è arrivato subito. E qualcuno ancora no. La mia corda mi ha guidato qua, dopo anni di cammino alla cieca. Ora sì, i lavori sono rimasti a metà, malinconia, abbandono. Ma professore, io oggi qua trovo aria pura, trovo pace. Ma significa che i sentimenti del ragazzo che ero meritavano di più delle vostre ambizioni. Tiri di box? Un po' fa. In piedi fai effetto. Raccontami di te e... Sì, meno trascendentale. Ma niente. Sono stato in fanteria di marina. Volontario, eh. Non per la gloria, non ne potevo più di casa mia. Un po' ho studiato, sa? Poco. I miei sono rimasti sotto un negozio durante un bombardamento. Ah, lei non saprebbe scrivere che cosa si prova a vedersi scoppiare una bomba pirica a 6 metri. Ospedale, poi. Finita la guerra ho fatto il manovale, lo serratore, anche il facchino. Adesso? Basta. E guardia usi? Perché? Fa vedere. I soldi che non vanno in cognac vanno in pugilato? Ma chi ti ha insegnato questa posizione? Quella è una guardia da pigmeo, quella dei miei figli. Dai, chi stende? Forza, chi stende? Forza, strisci per segare. Tiri di destra, forza. Ho messo l'oro nei guantoni di ragazzi meno a posto di te. E posso dirti che quello che conta è il morale, il mordente, il fiato, il resto sono cose che si comprano. Ti affiderei al migliore allenatore di Roma, ti va? Puoi rovinare l'estetica della palestra? E commendatore, io sono Peppe, seriamente da me. Che mestiere fai, Peppe? E mestiere? Diciamo che io porto fortuna. E questo faccio, io lavoro con la lotteria. Estraggo certi bollettini con i numeri stampati, questo faccio io. E certe notti, quando io non mi dovevo avere riguardo, mi chiamavano in certe case da gioco, così, per scaramanzia. E perché dovete sapere che questa roba qua porta fortuna, arrazza i minchioni. E poi ci sono gli incerti. Quali incerti? Hai la modo di dire. Dai, beh, ma dai, dai. Ma dai, che cosa? Che succede? Le piccolezze. Oh, ma tutto scemo sei. Qua non te va per niente di rubare. Commendatore, se pigliasse qua prima che ci ripenso. No, è inutile che si cerca. Questo sta qua ormai da tempo. Ma non te va per niente di rubare, lo sai. Sta qui Lucia Rossetti di Enrico? Tu, Enrico, sì. Io sono la madre. Usci, c'è sta il dottore. Ho contato 150 scalini. Però avete aria, eh? Pulizia, in confronto a certi campi. E chi è il responsabile? Di che? Non avete un responsabile? No. Male, male. Nominate. Dunque, vediamo di che si tratta. Ma che non sa? No, perché questo è nato. Anche io colgo il disturbo. Ti ringrazio per la collaborazione. Avrete mie notizie tra un paio di settimane, quando uscirà l'articolo. Il titolo sarà Gli inquilini della Torre di Babele. Con te il discorso è rimasto a mezzo. Ma lei diceva sul serio. Insomma, ma tu pensa che io ti manterrei fino al primo incontro? E pensaci, insomma. Ti lascio il mio numero di telefono. Tu, indicami la strada più breve per scendere da questo. E vado alla macchina fotografica per qualche scatto. Prigionare! Naturalmente, sbrigati. Nora, andiamo. Allora, le lastre sono perfette. Non sarebbe neanche necessario l'esame di pratica. Dottore, dopo che la gara di operazione per avere i segreti, uova, carne, zucchero. Appetito la malata, eh? Poco, ma io la obbligo. Va bene, togliti la camicetta. Chi non è della famiglia è pregato di uscire. Sarà ora di mettere giù la pasta. Agato, prendi lo strumento che andiamo a fare la serata di noi, va. Oh, tu vada alla scuola e comprerai i giornali per vedere se ti cerca. Oh, bella. Che dormi, che arriva. Se mi fai una nota al fatto basta. Ok. Che dormi. Quanti anni hai? 17? 18, a novembre. E che disturbi accusa? Nessuno, io sto bene. Ma niente, ha soltanto un po' di debolezza, qualche colpo di tosse. E a temperatura a quest'ora è al tramonto? Non lo so. Non abbiamo il termometro. Signora, quanti siete quassù? Qua dentro siamo 7. In tutta l'esposizione saremmo un migliaio. È così grande che quasi non ci incontriamo. Sa, dottore, noi abbiamo perso mio marito e tutto nei bombardamenti del 41. Altrimenti non staremmo qua. Senta, dica la verità, ci sono disordini in città. Signora, questi partiti estremisti ne approfittano subito. Quando l'organismo attraversa una crisi, reagisce con la febbre, che è una forma di difesa, e questa forma di difesa può essere violenta al punto tale da minacciare l'esistenza stessa dell'organismo. Ma la febbre è sempre un sintomo, mai una causa. E la medicina onesta cura le malattie, non i sintomi. Bisogno di curarti, Lucia. Ma ricordati che nessuno ha ancora inventato una medicina più efficace dell'allegria. Noi vorremmo sapere. Mi accompagni, signora, mi accompagni. Sì. Ma che dice? Che devi averti riguardo? Hai sentito? Se mi avessi trovato una malattia me l'avrebbe detto, no? Secondo te scriverà anche di me quel signore? Ma chi? Oh, sì. Peccato che non c'era Bartali. Venga dentro. Che fa là? Io sono andato vagabondo. Cioè, magari lo sapessi cosa sono nato. È che a stare troppo tempo fermo in un posto mi affloscio. Ma qua posso stare? Beh, certo. Ma ha detto Pippo che siete una specie di cooperativa. Com'è? Che ognuno da un tanto. Come capita. Ma non può scrivere di me, non sa niente. Io avevo un sacco di cose da raccontarti, sei tu che non hai voluto. E poi se sono messi a parlare tutti insieme... Ma chi andrà a tirare il box? Qualcosa bisogna pur fare, no? Beh, se resta qua, può cercare lavoro con Pio. A noi non darebbe nessuna noia. Ma dici sul serio? Chi ha paura che la gente dica sul serio? Più se ne vede, meno se ne crede. Però ti devi lavare, perché non puoi venire a tavola così sporco. Ma Lucia! No. Ha ragione. C'è sta una cisterna, proprio sotto le magnolie. Se faccio da saponetta al professore e... l'asciugamano! No, no, c'è un bel sole. Guardate, c'è stato il dottore. Ha detto che non ho niente. Oh, ero sicuro. Io ci ho avuto la giornata migliore di tutta l'estate. Torno col frigo vuoto. Questo è il regalo. Ma fa vedere? Domani la portiamo all'ospedale. Le diciamo che deve stare lì 2 o 3 giorni per una visita e poi tiriamo in lungo intanto che la bambina non sa più. Pure altri hanno fatto così. Ma guarirà. Ma assicurato che stiamo ancora in tempo. Adesso però come facciamo a dire? Già non riuscivo a tenere a letto nemmeno qua. Ma questa proprio non ci voleva. Considerare finito, ha portato alla luce una esigenza di organizzazione. E il primo passo sarà la nomina di una persona che si occupi della nostra collettività e che tenga i contatti con gli enti da cui dipendiamo. Ecco, facciamo! Adesso i rappresentanti dei vari gruppi dichiareranno il numero dei votanti e la ripartizione dei voti. Ma sono discorsi inutili, tanto vince mio marito, se sa. A meno che qua non ci sia una sorpresa, signora. E che sorpresa c'è? Silenzio, silenzio. Dunque, Palazzo Coloniale. Subito, signor avvocato. Votanti 114. Zorzi Cesare 29 voti. Marino Pio, che sarebbe mio marito, lo sappiamo, 61 voti. Poma Carlo 23. Mazzari 1. E chi è Mazzari? È Remo. Presente, deve essere Pio che ha votato per me, non lo segni. Ah, Remo, dovresti dare un'occhiata alla nostra grondaia. Perde più di prima. Signora, si spiega lei l'assenza di suo marito da una cerimonia che lo riguarda così da vicino? E beh, Pio la domenica mica rinuncia alla partita. Ma pensa che c'è la partita. Silenzio, per favore. Sottogruppo del Decumani. Eccolo. Votanti 7, Marino 2 voti, Mazzari 4 voti, un astenuto. Io indovino da che parte viene l'astensione. È facile indovinare, avvocato, quando si sa chi di noi non crede a simili puerilità democratiche. Silenzio, per favore, è una cerimonia ufficiale. Silenzio. Tu, gruppo della discesa. Sì. Votanti 179. Zorzi 23 voti, Marino 56 voti, Poma 8 voti e Mazzari 85 voti. Ma guarda bene che ci deve essere un errore. Gruppo dell'orto botanico. Ecco qua. Allora, votanti 182, Poma 6 voti, Zorzi 23 voti, Marino 59 voti e Mazzari 94 voti! Quanti? 94! Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Se poi senti ci stanno 94 voti, se la regione. Silenzio, per favore. Le cifre danno 481 votanti su 482 persone maggiorenni. Con 184 voti contro 178 di Marino, 82 di Zorzi e 37 di Poma. Remo Mazzari è stato eletto responsabile al campo profughi dell'esposizione universale. Bravo, a quello dei fatti nostri che stai passando per me. E lo dicevo che c'era una sorpresa. Ma no, il più sorpreso di tutti sono io. Avvocato, ma che devo fare? Ma quello che hai sempre fatto. Tu e la ragazza meritate un riconoscimento. Sì, indirettamente è anche lei che leggiamo. Diglielo da parte mia. Oh, per le pratiche negli uffici e altre noie burocratiche, vieni pure a chiedermi consiglio. E pensa alla mia grondaia. È la grondaia di uno che ha votato per te. Sono bugiardo. E complimenti, Remo. Ancora complimenti. Remo, ma sei l'avvocato del gruppo mio? Dove tu hai preso per Milano? Sì, lo so, signora, forse a lei dispiacerà che non sia stato eletto suo marito. No, no, no, no, che non fa servire tutti? Hai capito? Oh, come va, brigadiere? Ormai non pensavamo più a lei. Me lo figuro. E quando è tornato dalla Sicilia? 2 ore fa. Strano. A me invece era parso di averla vista in giro ieri sera. Mettiti gli occhiali. Disse il cieco all'orto. Cosa? Ogni partita è la vittoria! Ogni romano è un bel tifoso e sa strillare! Oh, che te dicevo io? Il primo tempo giocavamo contro vento. Cambia campo e cambia il bene. Pio, era meglio se stati qua a vederti toccare il polso dal Remo. Brigate, omaggi. Non ti hanno più messo dentro. Lo vedete? Lo vedete che cosa si deve sentire? Mettere dentro me. Ma io che cosa faccio di male? E tu, sovversivo. Sei senza lavoro, eh? E chi gliel'ha detto a me? Le cose io le so. Gobbo, quando vedi la signorina Eli, fammi il santo piacere di dirle che sono tornato e che l'aspetto sul piazzale. Servo vostro, brigadiere, servo dei vostri. Che ne muore tanta di gente, ma... E adesso che è tornato, professore? Ma... Insomma, Eli spiegherà a Remo e lui dovrà rassegnarsi. Non ti preoccupare, le femmine restano sempre a cavallo. Non mi dispiace. Lo sai che cosa ha detto l'avvocato? L'avvocato ha detto che è come se avessero letto te. Che maligno. Sono così contenta. Ellie. Vedi che c'è una persona che ti aspetta ad urgenza sul piazzale. Una persona per affare. Capito? Stringimi, eh. Remo, invece a te ti aspettano al Palazzo Coloniale. L'avvocato per la condanna. Professore, ma lei manca la scuola? Moltissimo. Uno di questi giorni devo parlarle. E forse bisognava dirglielo. Io, fatelo! Professore, professore, ma perché non mi dà quella rinuncita a voce? Hai 21? Hai 21 mezzo litro, come sempre. Sto arrivando, mi sto raggiungendo. Brigadiere? Brigadiere, potete entrare? Che voce! Siete là di fronte sui gradini e avvisami se si avvicina qualcuno. E come lo avviso? Fischia. Brigadiere, io non posso fischiare perché a me mi mancano i denti. Ma che imbecille! Lontano, lontano! Suono. E quando vedi venire qualcuno attacca la mancia dei bersaglieri. E come fa? Va bene, brigadiere, perché è lei. E io sono riguardo. Non ce lo scordassi. No, Settimio! Qua non si può! Allora era inutile mandarli via. Ho trovato uno che è disposto a comprare i copertoni. Oh, zitta! E paga bene, sembra. Quanto darebbe? 120.000 per tutti e tre. Dimmi tu quando devo prendere appuntamento. Ancora non lo so, se fanno un'ispezione. È un rischio. E per te 80.000. E 40.000 per te. A me servono. Ma non eri religiosa? Un peccato a fini bene, non è peccato. Questo sul codice non c'è scritto. No. Settimio. Vuoi che stiamo insieme anche stanotte? Non credevo che importasse tanto di te. E tu? Tieni qualcuno. E Lucia? Non è ancora tornata. Com'è andata? Niente, sono arrivato fuori tempo massimo e non mi hanno nemmeno classificato. Che corsa era? Salve. Era criterium degli allievi, 4.000 lire di premio e 2.000 al secondo. Senti, ma Lucia ieri come stava? In settimana le faranno un'altra piccola operazione. Altri soldi? A quello che ha vinto le 4.000 lire gli servivano meno che a me, ma ci puoi giurare. Bada, che c'è in giro tuo zio? Tocca che me lavo e che me cambio. Sempre guai. Mai una volta che ti abbia vista contenta. Parto, disastri, torno, disastri. Ho sbagliato a permetterti di restare. Non c'era altro da fare. C'era, Ellie, c'era. Mandarli all'inferno, tutti. Si ammalano, tanto paga tamburini. T'ho mai chiesto un soldo, per Lucia! Mi scrivevi che stavi preparando i vestiti per essere bella in primavera. Bugie sopra bugie, guarda qua! Sei più starciola di prima! Non so che cosa... farti le carte come dico io. Lucy! Lucia, non correre! Ti fa male, Lucia! Lucia, ma te lo dico! Non dovrebbe essere perdendo un infarto, Lucia! Ma quanto è... Bentornato, Tamburini. Oh. Hai visto chi c'è? No, non c'è nessun altro. E certo! Fai presto, portami! Senta, potrei chiederle un grande favore. Sono appena arrivato. Ma è per la bambina. Capisce? Vedendo la jeep sul piazzale, ho pensato che in un quarto d'ora si potrebbe riaccompagnare Lucia all'ospedale e tornare. Capisce? Si sta facendo freddo. Ciao. Ciao. Tirerò sulla capote. Che brava persona. Mamma, stanotte devo tornare nel teatro per l'altro straordinario. E meno male. Dove vede Dio lo vede. E tu lo vuoi patò. Ti piace? Oh, io l'ho vista nascere, ma non mi immaginavo che te stava così bene. Però un po' rimettiti il golfino, Lucia. Ma sembra che sta in paradiso. Vedi, te lamentavi sempre, ma pare che sta in paradiso. Perché non conoscevo l'ospedale. Vabbè, non è più così male, no? Per te, che ci stai 10 minuti ogni volta. Quell'odore. Con quel grafico attaccato al letto mi sembra di essere diventata una pagina di aste. E mattina mi sveglio là. E sera mi addormento là. Le pareti sporche. L'altarino con l'ometto acceso. I morti li mettono in una stanza su dei tavoli di marmo. E li tagliano anche. Per vedere cosa hanno dentro. Beh, e tu quando è che arrivi primo? La iella, no? Se me potevo comprare i volari, no, mi vedevi, ma dove corre questa annaffiatoia ogni 100 metri? Ma chi dorme nel mio letto? Nemo. Ah, l'avete proprio liquidata, eh? Bene, bene. E com'è che è rimasto poi quello? Beh, non è che è rimasto, è tornato. 3 mesi fa. Si era messo a far boxer da uno che c'ha la palestra. Ma chi, quel signore dell'articolo che poi non è uscito più? E perché ha smesso? Oh, ma che c'ha da far boxere quello che è più spiatato delle gomme mie, no? Luci, ti vado a piatto d'acqua? Era tutt'oggi che non tossivo. Credevo di essere guarita. Magari ti è andato qualcosa per traverso. Sì, e che cosa? Ma invece quel buco là? Ah, è stato mio zio, no? Per fare una sonda alle fondamenta. Che tocco a te? Te la devo fare io la sonda. Ma hai tradito? No, no. Ma non ti stancherai di aspettarmi? Ah, neanche lei mi dovrebbe baciare. E lei che bacia? Lei sì. Se ti chiedessi un piacere, tu mi accompagneresti? Vabbè, tocca a te. Che piacere è? Non ho voglia di tornare all'ospedale. Magari se glielo dici tu a mamma... No. No, Lucy, si sa che torni all'ospedale. Io avevo promesso a mamma che se lei mi portava per un giorno a casa, poi mi sarei fatta fare l'operazione. Però il coraggio che avevo se n'è andato. Lucy, ma perché te lo metto in testa che è tutto inutile se non ti dai aiuto da sola? Ma io gliel'avevo chiesto solo perché volevo stare un po' con te. Tu, mo, te ne torni buona buona all'ospedale. Ma no, questa faccia. E io in cambio ti prometto che me do da fava che c'è il permesso di venire a trovare tutti i giorni. E pare che te lo danno il permesso. A te non ti importa niente se non facciamo le cose che avevamo detto di fare. A primavera hai detto, adesso è primavera. e tu mi rimandi all'ospedale. No, non è ancora primavera, mancano 15 giorni. E il 21 lo sai che ti combino? Io lustro, annovo la macchina mia, mi vesto pulito, metto un calcio al carettino del castagnaccio e mi presento all'ospedale. Son venuto a più la fidanzata mia, io faccio il dottore. E se quello fa storie, io ti piglio, ti metto in canna e ti porto via lo stesso. E dove porti? In quel prato, in sua salaria, dove stanno le margherite più belle del mondo. E ci stanno anche i papaveri. Sì, e te ne corgo un mazzo grande. Anch'io. Insieme ne cogliamo un mazzo grande e poi ti faccio sdraiare il sole e ti copro tutta le fiori. I capelli, il collo, il vestito, tutta, tranne la bocca. Per baciarmi? Per baciarti, sì. E poi io mi sdraio vicino a te e te pio la mano come ti piaceva tanto e sentimo l'odore dell'erba schiacciata, della terra. E intanto il cielo diventa rosso, poi nero e alla fine spuntano le stelle. Gli uccelli non cantano più. Cantano i grilli invece. Io chiudo gli occhi e sono tua moglie. Sarò una brava moglie, sai. Farò tutte le cose che deve fare una brava moglie. Tu ci credi, no, Bartali? E invece non è vero. Ma cosa non è vero, Lucina? E anche tu ci credi. Io lo so che questa è la mia ultima primavera, non ce ne sarà altro. Oh, ma Lucy, ma che te salta in testa? Ma che te credi che non le so le cose? Te credi che non lo so che mi fanno l'operazione solo perché mi ha supplicati di farmela? Lucy, non fa così, che te fa male. Noi dobbiamo sperare. La nostra speranza deve essere così forte che ci dovrà ascoltare, dovrà averci pietà di noi. E tira sulla testa e guardami, Lucy. Fare un giretto sulla tua Packard? Sì. E no, tua madre non vuole. E dai, qua. Non dobbiamo neanche uscire. Va bene. Buone. Ma dai. Che ti ho comprato a fare, carrettino? Piano, sì. Non risponde, sa? Sei visto Remo? No. Io, carrettino, fino a che questa è una buona. E non piagne. E che piagne? Non risponde, sa? Che stava cercando il zio? Che c'hai? Le hai prese? Secondo lui mi devo portare il carrettino tutta la vita. Ma tu vuoi bene a Lucia? Sì, da matto, sì. E allora? Porta il carrettino! E lo sport fa brutti scherzi! Ah, io non mi muovo di qua. Cercate chi sta ragazza? Lo vedo sulla via di rifare i miei errori. E sono o non sono il responsabile del campo? È lì. Ho pensato di chiedere al professore di fare lezioni ai bambini del campo. Farebbe bene anche a lui, no? Ma quando mi fai parlare con la tua mamma? Non ricominciamo, Remo. Ma perché? Finché Lucia sta male, devo pensare a me. È ingiusto che una persona, soltanto per il fatto che c'è, abbia tanto potere sulla vita degli altri. Eppure c'è! C'è! Preghiamo Dio che ce la conservi! A volte penso che non mi ami. Eppure da oggi anch'io sono qualcuno, sai? Ma ascoltano, mi credono. E io ti ho sempre creduto. E io la devo a te la loro fiducia. Alla mano che tu mi stendesti quando sono tornato, Ellie. Tu mi hai dato il primo Natale della mia vita. Facciamo un discorso, Remo. Tu... Forse a te serve credermi perfetta. È un pensiero che ti aiuta, ma a me mi fa paura che tu mi immagini come non sono. Remo, per amarsi davvero bisogna prima conoscersi e perdonarsi tante cose a vicenda. Remo, io non sono una santa! Nessuna donna lo è! Sì, tu sì! No, Remo! Le sante stanno in cielo nei conventi, in cielo la famiglia a carico! E per questo è meraviglioso che tu ti sia conservata così come sei. Ellie, pensa. Si può dire che da quando vivo qui con voi io ho vissuto l'elemosina? Eh sì, perché non è un lavoro fare un piacere a questo e a quell'altro. Però, al momento buono hanno scelto me. Ellie, me. Se mi hanno scelto fra tutti, c'è la Pio, c'è l'avvocato. Beh, significa che pensano che io posso fare delle cose per loro. Io li conosco uno per uno. Conosco l'esposizione palmo a palmo, meglio del professore. Lo so io dove cresce troppo un albero. Dove una parete sta per cadere. Ellie, io so dove perdi una grondaia, eh. Vieni, guarda, vieni. Lo vedi laggiù? Stanno inchiodando due lamiere sul pozzo dei rifiuti. L'ho detto io. Ellie, hanno avuto ragione a scegliermi. Io posso fare qualcosa per noi. Ho visto una città qua fuori. Una città? Sì, di marmo. E di legno. Decine di migliaia di persone a Roma vivono peggio di noi. Nei campi. Litigando e odiandosi poi per un palmo di terra. Ci sono borgate dove non è passata la guerra, ma dove la vita è sporca e buia. E quassù, al sole, al vento di mare, decine di palazzi lasciati a metà si guastano e invecchiano. Io andrò dai senza tetto di Roma e dirò, ma venite con me! Venite con me! Ma sono io di un posto a Roma, dove c'è aria, dove c'è salute per tutti! Guarda, il materiale non manca. Le braccia che abbiamo non le vuole nessuno, pazienza, a noi serviranno. E agli altri devo soltanto chiedere che mi permettano di utilizzare questa cava di marmi, di pietra e di legno, ma per rendere abitabili i palazzi. Come potrebbero dirmi di no? Ti sembra una pazzia? No! No, no, e non devi dubitare. Ah, e non parliamone in giro. Voglio prima buttare giù un progetto preciso. Da dove si comincia? I geometri fanno i sopralluoghi, no, però io la pianta dell'esposizione ce l'ho qua, in testa. Io potrei disegnarmela a occhi chiusi. E comincio da quella, allora. Sì, subito. Oh, non ho un foglio di carta grande. Remo, ci sta la faccenda che tocca a te, dici. No, non ho tempo. E che responsabile sei? Tocca scendere giù. Va bene, ci sono le frette. Thank you. Ellie, devo parlarti. Io... Mi daresti una pulita alla giacca? Certo. È che qui nessuno ha mai cercato di capirmi e non ho con chi scambiare quattro parole. Tu, per esempio, ti sei chiesta perché non me ne vado, non cerco un buco già a Roma? No, certo, no, no. Ho dovuto vendere tutti i libri perché adesso guadagno poco, ma andiamo incontro alla buona stagione, se abitassi a Roma guadagnerei di più. Ma che vita è la tua? Non ti muovi mai, non vai neanche più al cinema. Ma spendere i soldi per vedere il lavoro degli altri. Ti sei scoraggiato troppo presto. Meglio, ho 27 anni. Alla mia età i personaggi di Giulio Verne avevano già fatto 3 volte il giro del mondo. Ma tu sei stato in Africa, in America! Ellie, ti racconto tante storie. Ma non sono vere. Si vive anche di vita che non sia. Vuoi sapere che cosa ho visto io dell'America? Un albero. Un albero? È che... A noi, catturati in Tunisia, ci portarono nel Kansas. Il Kansas, io pensavo di andare nel West. No, il nostro campo era in una zona desertica, a perdita d'occhio. E il deserto è... È il deserto. Ma fuori dal recinto c'era... C'era un albero. Un eucalipto. Come quelli del bosco. Ellie, avresti dovuto vedere quegli uomini, ragazzi di 20 anni e veterani di 50 aggrappati al filo spinato per guardare un albero. Quel verde, quella cosa alta, felice, io non saprei spiegarti che cos'era per noi l'America. Un albero. Ellie, io ti amo. Da sempre, altrimenti non sarei rimasto. Si è fatto buio! Pippo, io te voglio bene. Tu e Bartali siete per me come confratelli. Sai che cos'è questa fotografia? No, non sei tu. Guarda. L'hai fatta tu? Remo e Nora, a Villa Borghese. Ho fatto un bel affare a salvare Remo dalla polizia, eh? Ellie, ci sei? No! Ho conservato il tagliando con la data. Febbraio, un mese fa. Che farai? Niente! Andiamo alla stazione. In chiesa! Abbiamo l'inventario preciso. 2 fucili 91, 2 mitra beretta, uno stem, 2 pistole d'ordinanza e relative munizioni. Stato pulito nella cassetta, senza ruggine. L'ho scoperto ieri sera, quando ho voluto vedere dove sbucava il budello. Ma ti avrà messo lì tutte queste armi? Io lo so, e no, e le combinazioni. Mia moglie sta sempre a leggere. E senti che ti trovo io nell'ultimo giornale? È un racconto di vita vissuta. Oh, come sarebbe di io che racconto un fatto che ti è capitato a me. Scrive un lanciere del reggimento motorizzato Montebello, che l'8 settembre stava alla storta. Ci armammo e partimmo sugli automezzi. Attraversammo tutta Roma e giunti sul luogo dove doveva sorgere l'E42, il nostro colonnello diede l'ordine di smontare dalle macchine. Era già l'alba. Vedo ancora lo spettacolo orrendo. Morti dappertutto, feriti che si lamentavano, eccetera, eccetera, eccetera. Io

interreligiosa, quindi anche con la presenza di artisti musulmani, induisti, buddisti, anche all'interno delle chiese di Roma. E i luoghi scelti? Sono stati scelti per creare un'esperienza immersiva che possa mettere insieme bellezza dello spazio che ci circonda, quindi valorizzazione del patrimonio culturale tangibile, insieme alla suggestione e all'emozione delle storie. Per esempio, venerdì saremo all'interno del sito del mausoleo di Cecilia Metella con il racconto dell'Iliade, quindi una versione dell'Iliade moderna raccontata in maniera contemporanea, ma all'interno di uno spazio in cui saremo circondati da statue classiche. Quanti sono in tutto gli spazi? Sono 6 diversi luoghi più un evento che abbiamo già fatto di lancio decentrato, che è stato nel borgo di Farfa a Farsalina. I riferimenti web per i dettagli del programma? Sul sito www.raccontamiunastoria.com è possibile scaricare l'intero programma sia in italiano che in inglese, e ci trovate anche sui social media, su Facebook come Raccontami una storia, sempre tutto attaccato, trattino Festival Internazionale di Storytelling, e su Instagram come Compagnia trattino basso Raccontami una storia. 11ª edizione del Festival Internazionale di Storytelling Raccontami una storia a Roma dal 13 al 23 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento alla codirettrice artistica Paola Balbi. Alla prossima! Grazie a tutti e vi aspettiamo per emozionarci insieme. Con Valerio Bindi, uno dei curatori della 20ª edizione del Festival Crack, fumetti dirompenti dal titolo Carne, a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, dal 19 al 22 giugno 2025. Ben trovato. Ben trovato a te, grazie Federico. Sempre è un piacere essere con te per parlare di Crack. Spieghiamo cos'è. Crack è un festival autogestito, ma soprattutto auto-organizzato e autoconvocato. Cioè, la grande innovazione che rappresentò 20 anni fa, immaginare questo festival, era proprio il fatto che non facciamo delle mostre con autori che sceglievamo, invitavamo, ma facevamo una chiamata aperta che permetteva a chiunque di offrire il proprio stato dell'arte. Questo ci ha permesso di mostrare sempre le cose in contemporanea, cioè quello che era prodotto in quel momento, senza dover essere noi a decidere, ma lasciando che gli stessi autori ed autrici portassero la loro arte che producevano. Quell'anno che non facevano abbastanza cose non sarebbero venuti, e l'anno che avevano finalmente invece raggiunto il risultato si spingevano e si presentavano. Questa cosa è diventata un modello, cioè adesso i festival dell'autoproduzione si fanno con una call, si fanno in questo modo, e sono tutti basati su questa spinta che gli autori portano al festival. Ecco, una ricchezza che è importante. Come si struttura quest'anno? Sempre sono 4 giorni. Una delle innovazioni fondamentali è che abbiamo introdotto una cosa che ti farà piacere, che sono le presentazioni. Cioè, una cosa che non siamo mai riusciti a fare al festival, perché il festival è caotico e quindi è molto difficile riuscire a trovare spazi e tempi per discutere delle cose che si fanno, ma contemporaneamente è una cosa che ci è stata molto richiesta dagli autori, dalle autrici di tutto il mondo, ma anche dal pubblico, che aveva bisogno in qualche modo di alcuni chiarimenti, si poneva domande. Quindi ci sarà uno spazio presentazioni il venerdì, per oggi è il venerdì e il sabato, presentazioni brevi, 20 minuti, in lingua, non sono sicuro che tutte saranno tradotte perché alcune sono performative, altre no, comunque apparterrà allo stesso disordinato, caotico mood che caratterizza tutto il festival, dove si parlano tante lingue e dove si mischia un po' tutto per avere poi alla fine uno sguardo sinestetico e non localizzato su tutto quello che si vede. Dopodiché c'è sempre, per questa esigenza sinestetica, il fumetto si associa a musica, presentazioni, performance, installazioni e quant'altro, quindi comunque il festival accoglie tutta una piattaforma di musicisti, saranno MC Yalla e The Master è venuto tante volte a trovarci. MC Yalla è una MC straordinaria che viene dall'Africa orientale, e ci sarà per esempio Po, che è un artista detra che vive tra la Francia e l'Uganda, che porta una visione anche a volte inquietante della nuova musica africana. In Italia ci sarà DJ Galletta Scaliente, cioè ci sono vari DJ che appartengono un po' alla storia di crack, e poi nella domenica avremo un momento un po' più tranquillo con il dub. Noi abbiamo sempre questa idea di queste vibrazioni che confortano e rilassano gli artisti l'ultimo giorno del loro lavoro, e quindi abbiamo Tista Gaia, Bredda Paride, Dub Waves Project, e poi soprattutto la presentazione di un album radicante di Freddy Storr, che è un parito MC. Il giovedì, invece, dicevo, il primo giorno è un giorno più sperimentale, dove la musica è dal vivo ed è di gruppi che fanno un po' una ricerca. Questo come sguardo generale, però appunto ci saranno performance, danza, ci sarà un'installazione e un workshop in teatro. C'è un workshop che parte prima del festival, invece il 15. È un workshop che racconta la capacità di tessere legami. È un workshop che si propone di realizzare dei patchwork, sono piccoli gruppi che sulla base di un progetto, di un disegno, creeranno insieme uno o più arazzi a più mani. Quindi sono momenti in cui disegnatori, sarti e quant'altro si incontreranno e troveranno una forma per cucire, passare tempo, rendere queste cose un momento di condivisione, di desiderio e di realizzazione. C'è una mail a cui scrivere, si chiama Arachne Lab, trovate le info sul sito arachnelab@riseup.net per chi è interessato a trovare questa forma per raccontare fumetti. Fumetti anche sono fatti di tessere affiancate una all'altra, no? Il passaggio delle vignette, quindi comunque è una forma che c'è in qualche modo apparente, che c'è simpatica. C'è anche il laboratorio di ricamo erotico di Goga Mason, e c'è Rizomata, un'installazione che si svolge nel Teatro del Forte. C'è Giulio Bongiovanni che fa una performance danza. Anche a Cattedrale avremo delle installazioni, avremo uno spettacolo teatrale clownesco con un clown molto particolare, Chican, che si svolgerà la domenica. Insomma, c'è una visione che non è soltanto quella dell'arte. Non ho parlato minimamente degli artisti coinvolti e delle artiste coinvolte, ma per farvi capire che esiste proprio un mondo di cose che si svolge intorno al fumetto e che converge a creare questo spettacolo un po' circense che è diventato crack, dove l'arte si mescola con la performance, con l'attività. Nel complesso quanti sono gli artisti e le artiste per i fumetti? Noi abbiamo ricevuto quest'anno circa 700 domande di iscrizioni e sono state confermate circa 500. I numeri sono abbastanza indicativi, perché poi alcuni sono gruppi, alcuni sono singoli, diciamo che quasi 600 saranno quelli che ci aspettiamo noi, proprio di artisti presenti. Però questi artisti appunto saranno organizzati in gruppi, quindi io immagino circa 500 espositori, che è il massimo che noi possiamo sostenere, abbiamo visto come misura. Quando lavoriamo su misure più ampie ci troviamo che abbiamo più espositori che spazio possibile, quindi abbiamo dovuto ridurre. Sono artisti che vengono da tutto il pianeta, c'è chi fa 8.000-9.000 chilometri per arrivare a crack, e questa cosa è la cosa più incredibile per me, perché noi non possiamo sostenere il viaggio di tutte queste persone, quindi possiamo cercare di contribuire, a chi ne fa richiesta diamo un contributo a spese simbolico, ma è una spesa che questi gruppi affrontano e sostengono proprio per non perdere questa occasione che considerano importante per il loro percorso di vita, oltre che artistico, perché questo è crack, più che una mostra d'arte, è un momento in cui gli artisti di tutto il mondo si incontrano, condividono esperienze, progetti e progettano nuove cose. 20ª edizione del Festival Crack, fumetti dirompenti dal titolo Carne, a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, dal 19 al 22 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Valerio Bindi. Alla prossima! Grazie mille. Tutte le info aggiuntive sul sito crack.fortepresestino.net. Un abbraccio e un saluto a tutti e tutte. Con Gloria Sapio, direttrice artistica della seconda parte del Festival Portraits on Stage, dal titolo Arte in Cammino, in 9 comuni delle Valli della Niene e del Giovenzano, dal 7 giugno all'1 agosto 2025. Ben trovata! Buongiorno a tutti, eccoci qua. Ce lo presenti?

perché si sa che dove vanno i pittori c'è sempre un movimento internazionale, e quindi di riportare a distanza di mezzo secolo questa presenza internazionale nella Valle dell'Aniene. Dicevamo i luoghi: Subiaco, che è il centro più grande che noi abbiamo, con anche un teatro, il Teatro Liberty. Poi c'è Vicovaro, Arsoli, Antico Licornato, Gerano, Licenza, Marano Equo, Rocca Santo Stefano, che è una new entry di quest'anno, e Roviano. Ci dai anche i riferimenti internet? Certamente. Noi siamo Settimo Cielo, la mail prenotazioni@settimocielo.net, poi www.settimocielo.net, lascio anche un telefono 392043339, 331825459, siamo su Facebook, Portraits on Stage, e siamo anche su Instagram come Settimo Cielo Teatro. Ottava edizione del Festival Portraits on Stage, nella seconda parte che prende il nome di Arte in Cammino, in 9 comuni delle valli dell'Aniene e del Giovenzano, dal 7 giugno all'1 agosto 2025. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Gloria Sapio. Alla prossima! E io saluto e ringrazio te tanto per seguirci sempre. Grazie, alla prossima! Con Alessandro Fabrizi, direttore artistico della 11ª edizione della Festa di Teatro Ecologico, dal titolo Solstizio d'Estate, a Stromboli dal 21 al 30 giugno 2025. Ben trovato. Ben trovato a te, buongiorno. Spieghiamo cos'è, presentacelo. La Festa di Teatro Ecologico, ne abbiamo già parlato tante volte, comunque è una manifestazione che si svolge generalmente all'inizio dell'estate a Stromboli, incontri di teatro, musica, danza, presentazione di libri, divulgazione scientifica, cronaca, con una caratteristica che è quella che non usiamo la corrente elettrica per l'amplificazione, quindi niente microfoni, niente musica registrata, e per l'illuminazione. Abbiamo giocato con candele, torce, fuochi per tanti anni. Adesso sull'isola parlare di fuoco dopo l'episodio dell'incendio di alcuni anni fa, meglio evitare. Sì, magari usiamo ancora delle candele, però stiamo usando dei LED molto funzionali, tutto sommato anche molto ecologici, perché effettivamente si ricaricano semplicemente con la luce del sole. Di solito c'è un tema, quest'anno non c'era, per cui il titolo è venuto fuori proprio dal fatto che iniziamo esattamente il 21, finiamo il 30, quindi passiamo attraverso il 23 e il 24, quindi proprio i giorni del solstizio d'estate. Quindi il titolo viene dal periodo dell'anno in cui si svolge la festa. Anche se poi mi sono accorto, rileggendo il programma, che un tema c'è. Quasi tutti gli eventi ruotano intorno alla terra come casa comune, la terra come luogo da ascoltare, da rispettare, non soltanto da sfruttare sconsideratamente. E questo parte anche da un piccolo convegno che si svolgerà nel corso della festa, dedicato al decennale della pubblicazione dell'enciclica di Papa Francesco Laudato Si. Appunto, questo convegno dedicato a questa importantissima enciclica avrà 3 giornate e che vedranno ospiti, tra gli altri, Danilo Selvaggi, che è il direttore della LIPU BirdLife Italia, e Paolo Pileri e tanti altri, da Emanuele Fornorman a Guido Giordano a Pietro Locascio, Giuseppe Fulco, Luca Morari, eccetera, per riflettere intorno ad alcune delle, anche sì, posso dire, provocazioni che Papa Francesco ha lanciato con la sua enciclica. Alla terra sono dedicati anche degli incontri a cura di Stefania Minciullo, che si chiamano Elogio della Terra. Sono incontri proprio con gli strombolani, con l'isola. Uno di questi non potrà mancare, è all'alba, per raccogliere i fiori e le erbe per fare l'acqua di San Giovanni del solstizio d'estate, che insomma con i suoi poteri magici, per chi ci crede, io ci credo. E poi alla terra è dedicato anche lo spettacolo che ormai quella che scherzosamente chiamiamo la compagnia stabile della Festa di Teatro Ecologico presenterà quest'anno, che si chiama Cerere Furiosa, con le musiche originali di Gianluca Misiti e Amedeo Monda, i costumi di Marina Sciarelli e Pino Genovese, e sono 3 storie dalle metamorfosi che io ho ricucito e adattato, che riguardano appunto Cerere, la dea dell'abbondanza, che viene offesa da un re tessalo che, per farsi un tavolo da pranzo, distrugge un bosco a lei sacro, un bosco sacro Cerere, non rispettando quindi la natura, sfruttandola a suo uso e consumo, e quindi Cerere lo condanna alla fame, a una fame insaziabile che non riuscirà mai a saziare, per cui continuerà a dilapidare tutti i suoi averi, tutte le sue fortune, tutti i suoi beni, figlia compresa, ma nulla lo ferma e finirà col divorare se stesso, che è un po' la storia dell'umanità. Poi ci sono tanti altri incontri, Federico, ci sono presentazioni di libri, presenteremo il libro di Paolo Leotti Che sapore hanno i muri, il libro di Francesca Saturnino La non scuola di Marco Martellini, Tracce e voci intorno ad Aristofane a Pompei, e il libro di Serena Gatti Sentieri, che racconta il lavoro di Azul Teatro. C'è un graditissimo ritorno, che è quello di Raffaella Mesiti, che si porta dietro Stefano Scatozza e Danilo Selvaggi degli Acustimantico, e risentiremo molte delle canzoni degli Acustimantico, compresa la canzone di Giugno, che non poteva mancare. Vogliamo celebrare anche due centenari. Uno è quello della nascita di Andrea Camilleri, a cui dedicheremo la lettura partecipata, cioè quel momento in cui spettatori, turisti, organizzatori si mescolano agli attori per leggere insieme un testo, e quest'anno lo leggeremo ad alta voce. Quest'anno leggeremo dei brani dal Gioco della Mosca di Andrea Camilleri. E l'altro centenario che vogliamo festeggiare è la nascita di Emilio Garroni, filosofo e scrittore, forse uno dei pensatori più importanti del Novecento, di cui leggeremo alcuni racconti. Lui, oltre ad essere un importantissimo filosofo, è stato anche uno scrittore singolare, interessante, e Alessio Esposito leggerà tre racconti e tutto il gruppo degli attori della Festa di Teatro Ecologico leggeranno un quarto racconto che si chiama Ricordo di un amico felice. Poi ci sarà Ulderico Pesce, che viene con un suo Storie di scorie, ma anche questo è uno spettacolo in fondo dedicato alla Terra, per raccontare il pericolo che ancora oggi rappresentano le centrali atomiche e i rifiuti radioattivi. E per la danza Giorgio Rossi e Sosta Palmizzi ci offrono quest'anno il lavoro di una giovanissima danzatrice e coreografa che si chiama Vanessa Mattei Scarpaccini, che ci porta un suo studio spettacolo che si chiama Vanessa Io, esercizi di nascondimento, che è dedicato a una farfalla che deve appunto il suo nome Io alla sacerdotessa di Giunone, che è una figura mitologica il cui trascorso porta in sé un forte accento sulle tematiche della partitura coreografica e spaziale che ci offrirà Vanessa Mattei Scarpaccini. Ci sarà un laboratorio per bambini intorno a un libro, un racconto molto divertente, scritto da Maria Maugeri, che si chiama E qui comincia un'altra storia, in cui Maria Maugeri fa incontrare Pinocchio con Cappuccetto Rosso, la Bella Addormentata nel Bosco, il Lucifero, e ne combinano di ogni. E ci sarà il consueto incontro con i vulcanologi, quest'anno c'è soltanto Guido Giordano, ci farà proprio vedere cosa ci dicono le rocce di Stromboli. E dulcis in fundo, un laboratorio di Mario Laudati, accordatore, è il musicista che viene ad accordare i pianoforti quando ci serve un pianoforte alla Festa di Teatro Ecologico, e quest'anno vuole fare un laboratorio interattivo coinvolgendo gli attori, il pubblico e i turisti in un'esperienza di comprensione pratica di che cosa significa accordo, accordare. Quando mi ha proposto questa cosa l'ho risposto con grande entusiasmo. Finiremo con ormai un tradizionale varietà finale a cura di Maurizio Rippa, che quest'anno si chiamerà La notte dei desideri, e che siamo felici di ospitare un incontro con Eloisa del Talpiai, che è una ecopsicologa, e offrirà a un gruppo ristretto di partecipanti, quelli che vogliono partecipare, un laboratorio di ecopsicologia applicata che si chiama Il mandala degli elementi. Naturalmente ci saranno le solite chiacchiere da bar, alle 10:30 ci vediamo al bar per chiacchierare di quello che è successo il giorno prima, e tre mattine, tre orette dedicate alla cura dell'isola, perché insomma ci interessa in modo appunto assolutamente simbolico e poetico anche prendersi appunto un momento per pensare che quando si va in un posto spesso lo si sporca, e quindi proviamo a insomma raccogliere un po' di bottiglie di plastica, di detriti rimasti sulle spiagge. I riferimenti web per i dettagli del programma? www.festateatroecologico. Undicesima edizione della Festa di Teatro Ecologico dal titolo Solstizio d'estate a Stromboli dal 21 al 30 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Alessandro Fabrizi. A presto. Grazie a te, grazie, ci vediamo a Stromboli. Ciao.

Sono due classi, femminile appunto e maschile insieme, in alcuni laboratori di circa 15 ragazzi. Noi crediamo nel potere della rieducazione, perché l'istituto carcerario e soprattutto quello per i minori deve essere un momento e un periodo in cui si possa crescere, si possano imparare delle cose che una volta fuori magari appunto ci si possa mettere alla prova per futuri lavori, per future esperienze. Quindi noi ci crediamo molto in questo tipo di attività, quindi è fondamentale, fermo restando il discorso della colpa e della pena. I riferimenti web per tutti i dettagli? Il sito è www.l'artenonasbarre.it, ci sono le pagine social ovviamente di riferimento, il progetto è in collaborazione con Marte Social, con, ovviamente con Giuseppe Casa e con tutto lo staff dei marziani di Marte Live, e abbiamo questa bella sfida che non vediamo l'ora di condividere con tutti, soprattutto aspettiamo le prenotazioni per le visite guidate. Il progetto artistico-sociale L'Arte non ha sbarre a Roma, Istituto Penitenziario Minorile di Casal del Marmo, da giugno a settembre 2025. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Oriana Pizzuto. Alla prossima! Grazie, grazie Federico, grazie a tutti. È il momento dell'agenda per quanto riguarda gli appuntamenti teatrali della settimana con Simone Nebbia di Teatro e Critica. La settimana del teatro a Roma, ed eccoci qui a parlare di ciò che offre la città, ma non solo. Quindi buon pomeriggio a tutte e tutti, e direi di partire dal Teatro India, o meglio, detto un po' più precisamente, alla stagione fuori stagione, il fuori programma, che è il Festival Internazionale di Danza Contemporanea, decima edizione di Orbita Spellbound, presentato appunto al Teatro India, Teatro Biblioteca Quarticciolo, al Parco di Tor Tre Teste e Location a Sorpresa a Roma. Si comincia, anzi in realtà si è cominciato proprio ieri, 16 giugno, si andrà avanti fino al 9 di luglio, e per quanto riguarda, beh, insomma, saranno tante settimane, ma andremo a parlarne anche più diffusamente. Però ecco, per l'occasione sicuramente è da segnalare che sta andando avanti questa settimana al Teatro Biblioteca Quarticciolo per tutta la settimana fino al 20 di giugno questa residenza prove aperte di Bianco Masako Matsushita con Laura Pugno, stanno preparando questa residenza, e poi successivamente verrà aperto il campo su appunto il lavoro di Nunzia Picciallo, Lemmy B, sempre al Teatro Biblioteca Quarticciolo, e poi più avanti insomma negli altri spazi vedremo altre cose, ma insomma attenzione, perché Orbita, fuori programma di Orbita Spellbound, insomma andrà avanti per un po', e quindi lo seguiremo, si tratta di danza, la seguiremo andando avanti in queste settimane. Poi segnalo anche il ritorno delle fiabe a Palazzo Chigi Albani, a Soriano del Cimino, provincia di Viterbo, la quarta edizione, è un evento gratuito, quindi chiunque dovesse trovarsi da quelle parti, le fiabe a Palazzo se le andrà a vedere fino al 29 giugno a partire dal 19, invito ad andare sul sito magari anche del comune per vedere il programma poi completo. Questa settimana tornano anche i Nasoni che raccontano. I Nasoni raccontano, progetto di La città ideale, è al Quadraro in questa edizione, al Quadraro per questo viaggio teatrale urbano con tante storie che hanno a che vedere insomma con il quartiere appunto omonimo, e che appunto dal racconto popolare itinerante diventa poi archivio vivente della città e delle voci dimenticate. E ci sono storie che hanno a che vedere con la resistenza, ma non solo, anche storie più recenti, storie insomma di popolo che andranno un po' a costruire questa memoria del Quadraro. 20-22 giugno, ingresso gratuito, su prenotazione obbligatoria, da Piazza Don Sardelli a Roma partirà poi il percorso. Per andare a prenotare si va su Eventbrite, sì, Eventbrite, scrivendo I Nasoni raccontano, e sicuramente apparirà qualcosa da prenotare. Poi continua anche in questa stagione, precisamente alla quinta edizione, il Rocca Fest, questo festival delle arti sceniche, sarà 16-18 giugno, quindi diciamo di base è già cominciato, nella cornice del complesso museale del Castello di Rocca Pia e delle Scuderie Estensi a Tivoli. La direzione artistica è di Valeria Freiberg, e ci saranno insomma gli spettacoli in questi tre giorni, così come ci saranno degli appuntamenti di workshop intensivi, percorsi per attori, un laboratorio di movimento scenico, insomma comunque invito ad andare sul sito dell'associazione Ariadne per il programma appunto completo degli appuntamenti di Rocca Fest a Tivoli. Invece al Teatro India 18-22 giugno un trittico di danza per esplorare la nuova coreografia contemporanea, si tratta di tre appuntamenti, 18-19 giugno ci saranno sia la coreografia di Giorgia Lolli, Hit Me, sia la coreografia di Noemi Dalla Vecchia e Matteo Vignali in arte Vidave dal titolo Folklore Dynamics, mentre invece 21 e 22 giugno andremo a vedere l'ideazione di Lukas Carvelis, She Dreamed of Being Washed The Way to the Coast, questo è il lavoro che andremo a vedere al Teatro India, appunto 18-22, sul sito teatroiroma.net per il programma più completo delle tre coreografie. Mentre invece andrei a dire che il Teatro di Roma offre anche a partire dal 23 giugno, ma fino al 26 di luglio, per la prima volta, cioè la prima edizione, il Teatro Ostia Antica Festival, quindi nella cornice meravigliosa di Ostia Antica andremo a vedere una serie di spettacoli, si comincia proprio il 23 giugno, che è lunedì prossimo, con un prologo inaugurale, ma alla Sala Santa Cecilia dell'Auditorium, quindi insomma l'Ostia Antica Festival poi parte dopo, perché effettivamente se il prologo sta all'Auditorium, al Teatro Romano di Ostia Antica si andrà più tardi, quindi il prologo sarà affidato alla voce recitante di Massimo Popolizio, che appunto presterà la propria voce a questa opera con le note dell'Antigone di Mendelssohn, e poi appunto dalle date successive andremo al Teatro Romano di Ostia Antica, e questo sarà l'appuntamento, un po' uno degli appuntamenti dell'estate. Ultimo degli appuntamenti non è a Roma ma a Nemi, perché venerdì 20 giugno alle 21 la rassegna Teatro di Paglia, diretta da Manuela Mandracchia e Fabio Cocifoglia, porta a Nemi, al lago di Nemi precisamente, il Roberto Baggio di e con Davide Enia. Lo abbiamo visto di recente, l'abbiamo visto nelle sale del Teatro Ateneo della Sapienza, e insomma, mi fa piacere poterlo segnalare, il 20 di giugno alle ore 21, uno spettacolo bellissimo, è un monologo bellissimo scritto intervistando medici e infermieri di Emergency, e racconta di chi vive e lavora nelle zone di guerra, partendo dall'omonimia tra un medico anestesista e appunto il calciatore Roberto Baggio. Questo è il titolo dello spettacolo e questo è tutto per quanto riguarda il nostro teatro della settimana. Buon pomeriggio a tutte e tutti e buon teatro. Questa è Tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.